da alcune settimane in un'assemblea antirazzista per appunto organizzare quella che sarà la nostra manifestazione, la manifestazione che pensiamo abbia diritto di stare in piazza in quel giorno e non solo in quel giorno, visto che appunto Torino è antirazzista, dato prove innumerevoli volte appunto che di come la città non sia assolutamente terreno fertile per questi personaggi. L'idea di questo corteo che ha chiamato la Lega appunto nazionale nella nostra città è quella di una manifestazione, come scrivono loro, per la legalità e contro l'immigrazione clandestina. Chiaramente, insomma, adesso dopo questa ennesima violenza, dopo queste ennesime morti in mare a Lampedusa, chiaramente tutto questo ha un tono ancora più grottesco, diciamo, semmai ce ne fosse stato bisogno, le dichiarazioni insomma di Maroni sul fatto che spera che assolutamente non venga messa mano alla legge Bossi-Fini, legge appunto di cui loro sono i principali artefici e che appunto ha fatto sì che adesso i superstiti di Lampedusa venissero indagati per questo fantomatico reato di immigrazione clandestina, diciamo. La dice lunga, ma questo è uno, come davvero sono mille motivi per scendere in piazza il 12 contro la Lega, perché appunto la nostra città non è stata scelta a caso, visto che a Torino la crisi insomma morde probabilmente di più che in altre città per un discorso di passato di fabbrica e quindi di altissimo numero di cassa integrazione, ad esempio. E diciamo che la Lega e nello specifico Cota, presidente della regione da noi, siede ai tavoli dell'austerity e tra i responsabili dello smantellamento della sanità pubblica, perché ad esempio da noi molti ospedali, tra cui il Valdese nel quartiere di San Salvario, stanno chiudendo per il fatto che appunto che la regione non li finanzia più, non dà fondi, e quindi insomma anche questo, cioè come si fa comunque a tagliare sulla sanità pubblica e poi a dire che si sta dalla parte della gente, che questo è solo uno dei loro slogan, insomma uno dei loro slogan populisti e quant'altro, non so, dimmi un po' tu. Quello che insomma salta agli occhi dopo dopo il tuo intervento è il discorso che è evidente, il fatto che non c'è una differenza tra, ne parlavamo appunto anche nella precedente corrispondenza, tra chi in questo momento sta subendo in qualche modo le politiche di austerity e i migranti che sono costretti a mettersi in una barca e a sbarcare o a morire, rischiano di morire pur di arrivare sulle nostre coste. Quindi diciamo che c'è un'evidenza su questo ed è difficile davvero sostenere il contrario, e penso che sarà difficile anche alla Lega Nord sostenere il contrario, proprio per la condizione che subite a Torino e non solo. Ma diciamo che insomma questi personaggi in realtà riescono, nel senso che promulgano, cioè quello che loro proprio sponsorizzano è una guerra tra poveri, per cui comunque le loro retoriche sono sempre le stesse, diciamo. Quindi ad esempio Maroni in questi giorni si sta dando da fare nel dire che la colpa è di chi non sorveglia le coste dei paesi di partenza, perché qua bisogna arrivare solo se si ha un lavoro, eccetera eccetera. Ovviamente, come dici tu, in primis siamo noi a vedere il fatto che ci troviamo davvero molti di noi giovani nuovamente nella condizione di emigrare a nostra volta, cercando chiaramente delle condizioni migliori, e quindi già solo questo fa ovviamente capire che un progetto di vita non c'è già quando si compie una scelta, di questo tipo. I discorsi che fanno loro appunto sono proprio quelli di tentare di soffiare sulle ceneri di questa paura, di questo appunto paura del nemico, di qualcuno che viene a rubarci quel poco di lavoro che ancora è rimasto, eccetera. È ovvio che oggi questi discorsi qua sono estremamente sterili, perché comunque appunto lavoro in questo momento non ce n'è per nessuno, e poi è chiaro che di fronte a quello che è successo, insomma, comunque chiaramente queste dichiarazioni sono veramente, lasciano davvero il tempo che trovano. Però se questo è un pezzo, diciamo, altrettanto pericoloso, e pericolose secondo me sono le dichiarazioni di altri esponenti della politica, che invece appunto molto più ipocrite, molto più sottili da un certo punto di vista. E infatti ad esempio abbiamo visto tutti come sia stato dato la cittadinanza italiana alle persone che sono morte, mentre invece appunto i superstiti sono stati immediatamente indagati per il reato di immigrazione clandestina. E anche se adesso si scrive sui giornali è un fatto dovuto e la prassi perché c'è la legge Bossi-Fini che lo impone di default eccetera, è proprio lì che bisogna invece andare ad incidere. Noi sicuramente come compagni e compagne, scendendo in piazza, contestando questi personaggi, combattendo contro questa legge assurda e contro tutte le loro politiche securitarie e fortemente razziste. E diciamo che chi invece dall'alto della sua poltrona vuole fare appunto quello commosso, quello dispiaciuto, quello della tragedia eccetera, che vada insomma a mettere mano su quella che è insomma a definire una legge, e persino buono, non so, sembra persino di farle un complimento. Va bene, noi ti ringraziamo per il tuo intervento, insomma ci andremo a sentire sicuramente il 12 ottobre.